Oggi, giovedì 30 giugno 2011, sono circa le 17.30 e sta per iniziare su Fuso Radio lo spazio dedicato a un'altra Radio Roma, la web radio che trasmette musica licenziata Creative Commons. Podcastesimo. Podcastesimo. Podcastesimo. Podcastesimo. Ok, allora vai dritto. Un'altra Radio Roma, the web radio that opens your mind. Un'altra Radio Roma, the web radio that opens your mind. Un'altra Radio Roma, the web radio that opens your mind. Sotto al logo. Buon pomeriggio a tutti da Mister Gasperino. Bene, è arrivata l'estate e ognuno di noi si sta organizzando per passare al meglio queste vacanze. Dopo un anno di intenso lavoro, o di studio, o di quant'altro, di faccende domestiche, non so, quello che fate nella vita, è giunto il momento per riposarvi un po'. Io un consiglio per tutti quanti voi, io l'avrei. Scaricate i podcast qui su Fuso Radio che vi accompagneranno durante quest'estate per rendervela unica. Un'altra Radio Roma logicamente è qui con voi, è qui per voi e insieme a voi farà un percorso lunghissimo che è quello della musica Creative Commons, quello di farvi conoscere altresì modi diversi di esprimere l'arte attraverso la musica, attraverso licenze diverse. Il primo genere che vado a trattare è quello del funky, che in qualche modo ricorda appunto l'estate, ci sta proprio a pennello, ci cade proprio bene. E la prima artista che andiamo ad ascoltare è Paola Arcieri, che ci presenta Hanye, che trovate su Jamendo. Il secondo gruppo, successivamente attaccato, immediatamente appiccicato, sono i Fan Call, che presentano un brano dedicato al nostro Presidente del Consiglio, che si intitola Big One. A me non resta che dirvi buon ascolto. Is that fun? Don't wear no panties. Annie, don't wear no panties. Oh, come on, say Annie, don't wear no panties. Is it gonna spend a Santa Claus, then a break a leather sack and drown? Yeah, Annie, don't wear no panties. Annie, don't wear no panties. Oh, say Annie, don't wear no panties. Down in the bathroom stove was there when she took them off. Yeah, honey, I don't wear no panties. Ooh, honey, I don't wear no panties. Oh, Eddie, I don't wear no panties. Yesterday in the bathroom floor, that was why we see only ghosts. Yeah, honey, I don't wear no panties. can't afford it. I think it to the videotape recorded. Oh! Don't wear no pants. Yeah, come on, say it. Don't wear no pants. Yeah. On the front pew, giving the contacts and then I give you. Oh, Annie, don't wear no pants. Hey, I don't wear no pants. Yeah, yeah. Hey, don't wear no pants. Have no dress, but with your work and enter outside. Hand me, don't wear no panties. Annie, don't wear no panties. Yeah, come on, say Annie, don't wear no panties. Sit down in the bedroom still, having in a thousand drink. Yeah, yeah, yeah, yeah. Don't wear no panties. Annie, don't wear no panties. Oh, oh, oh, Annie, don't wear no panties. In a Santa Claus, and I bring a lover suck and drown. Come on, say Annie, don't wear no panties. Yeah, yeah, yeah. Don't wear no panties. Don't wear no panties. Annie, don't wear no panties. Yeah. Annie, don't wear no panties. It's a feeling if you can't afford it. I think it's to the videotape recording. I'm proud of you. andiamo avanti così. Ed è giunto il momento di non salutare nessuno, visto che ormai è un po' che è iniziato questo podcast. Anzi, una persona la vorrei salutare, Mr. Campo, detto Nessuno. Detto questo, che mi sembra quanto doveroso, andrei con altri due gruppi, perché la voglia che ho di trasmettervi musica oggi è veramente tanta. Li ho trovati entrambi su Dogmazic, un altro bel sitarello radicale per quello che riguarda le licenze Creative Commons, e vi consiglio di andarlo a vedere, a spulciare e a girare. Il primo gruppo risponde al nome di Hybrid Circle e ci presenta Angel, e suonano insieme dal 2008. Mentre Gallo al basso, D'Angelo alla chitarra, Pannaccione alla voce e Barbiero alla batteria compongono una formazione napoletana che risponde al nome di Zero Lab Station, e la traccia che ci andiamo ad ascoltare è Good Job. Ma prima Angel degli Hybrid Circle. Mi piace questo progetto Denartra Radio de Roma, si dice così. Si dice così. Money, I finally found free. Good job. finalmente è giunto il momento di parlarvi del podcastesimo. Che cos'è il podcastesimo? È la forma spirituale del podcazzismo, ossia il fare dei podcast a cazzo, come li fa Nartra Radio Roma. Niente di più, niente di meno, l'unica regola che c'è è che non esistono regole, a parte quella di utilizzare artisti licenziati sotto Creative Commons, come facciamo del resto noi di Nartra Radio Roma. E il gruppo che vi vado a presentare è un gruppo scovato su Dogmazic, che si chiama Dumbo Gets Mad, che significa Dumbo è arrabbiato. Il brano si intitola You Make You Feel e lo state ascoltando su Fuso Radio. Sito per gli amanti delle licenze Creative Commons è Jamendo, ed è da qui che ho trovato i Mantias, che nel giugno del 2011 hanno pubblicato un EP dal titolo appunto Mantias. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si intitola Numeri. Cominciate a contare: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sai bene che penso quando non mi sento perso. Basta, adesso andiamo avanti. Anche la prossima formazione la trovate su Giamendo. Si chiama Did We Sting ed ha pubblicato un album nel giugno del 2011 dal titolo Bozze. Viene da Cagliari e la traccia che ci stiamo per ascoltare si intitola No Pain. Radio Roma. No pain, no gain. Yeah. Le canzoni le scrivo per me stesso, con una chitarra, una matita ed un foglio di carta. Però la tentazione di farle sentire agli amici e ai parenti è sempre stata forte. Le canzoni le scrivo per me stesso, con una chitarra, una matita ed un foglio di carta. Scrivo, però la tentazione di farla sentire agli amici e ai parenti è sempre stata forte. E così, tra un viaggio spesso, di lavoro perché nelle strofe che e scrivo, un cambio racconto di pannolini, proprio di loro. Ho deciso così, di registrare alcuni dei miei cambio di pannolini, ho deciso di registrare alcuni dei miei pezzi. Dal foglio di carta le canzoni sono passate nel mio portatile. E dal portatile al web. E noi dell'altra Radio Roma. B. Trasmettiamo Zero Certezze, un artista italiano che suona dal 2000 un rock pop con il brano Ricami. E le fiamme di Milano, sullo sfondo il bel paese, contadino ed operaio. Vengo dai ricami di una sarta che cuciva l'onestà, vengo dalle feste di paese, giochi e vino a volontà. Sono la somma algebrica dei miei pensieri, sono il risultato di ciò che era ieri. Vorrei scrivere su un libro le mie pagine di storia. Vita cancellato, i volti fatti e la memoria. Di bambine un po' impaurite che salutano con la mano per tirare poi canzoni del sogno americano. Dagli onori vengo dalle vite intrecciate di ribelli e servitori. Sono la somma algebrica dei miei pensieri, sono il risultato di ciò che era ieri. Storie chiuse ormai, ma non per me. Direttamente da Fonte Nuova, i Gambler con She's My Shock. Io ho paura, sono malato, paura, sono malato, un'altra Radio Roma, un'altra Radio Roma, the radio of the ministers. Allora, amici di Fuso Radio, stanno giungendo qui in redazione moltissimi messaggi. Voglio essere un attimo chiaro per quello che dicevamo all'inizio, l'argomento del podcastesimo. Allora, rispondo a Ilaria dicendo che questo movimento spirituale, appunto come si diceva all'inizio di questo podcast, si rifà alla filosofia del podcastismo. Richiede assoluta devozione nella ricerca accurata di artisti musicali licenziati Creative Commons, scegliere i brani che più ti aggradano, metterli così su un lavoro e farci un podcast di musica a svansvera, per poi inviarlo all'indirizzo mail naltraradio@live.it. dicendo che gli incontri di approfondimento sul podcastesimo su un'altra Radio Roma.org. Siamo diventati org. Vi vado a lanciare un gruppo che ho scoperto su Dogmazic, ma poi li ho trovati anche su Jamendo. Hanno fatto un brano impronunciabile che abbreviamo con HBB, sono francesi e rispondono al nome di Smile. Podcastesimo. We'll be right back. po' più attempati come me sicuramente si ricorderanno i vinili, nonché i 33 e i 45 giri. Noi i 45 giri li infilavamo nei mangianastri per ascoltare le nostre prime canzoni, per innamorarci così dell'arte musicale. Appunto, parlavamo dei 45 giri. E sempre su Dogmatic ho trovato un artista francese che risponde al nome di Jean Blue, che ci presenta un punk veramente notevole. Amici di Fuso Radio, ci risentiamo fra 6 minuti. Ragazzi, nar tra Radio Roma è tornata. Sarei comunque contatti che ho avuto durante questa ora, l'idea del podcastesimo ha coinvolto veramente tutti quanti. Quindi saremo sempre di più a seguirlo, a riunirci attraverso il sito web nartraradioroma.org per essere illuminati sulla musica Creative Commons, come ad esempio il sito che ci regala quest'artista risponde al nome di MacIdol, un altro bel sitarello per tutti gli amanti delle musiche licenziate Creative Commons. Risponde al nome di James Bouchard e ci presenta un brano dal titolo What's It I Said. Ricordate che siete su Fuso Radio e anche un po' su un'altra Radio Roma. Was it something I said? E come se niente fosse, ci troviamo giunti alla fine. E per tutti quelli che hanno avuto il coraggio di sopportare i miei sproloqui, ma soprattutto hanno avuto la possibilità di apprezzare artisti veramente validi, una piccola sorpresa. Qualche tempo fa, qui su un'altra Radio Roma, abbiamo intervistato un artista, Christian Muela, che si è presentato con il suo didgeridoo e ci ha regalato emozioni infinite, fino a regalarci, appunto, un nuovo jingle che abbiamo rovinato sapientemente e potrete apprezzare al termine di questo podcast. A me non resta il tempo che ringraziare Fuso Radio, ringraziare tutti gli artisti che ci hanno donato la loro musica, ringraziare voi che mi avete fatto compagnia fino a questo momento e darvi appuntamento a giovedì prossimo con qualche altro fantomatico VJ dell'Artra Radio Roma. Giusto il tempo di salutarci attraverso un brano prima di ascoltare il nostro ultimo jingle, e a salutarci saranno un gruppo nostro amico romano, loro sono i Dei Miei Dei e ci presentano Strano Odore su Fuso Radio. Fuso Radio, Fuso Radio, Fuso Radio, Fuso Radio, Fuso Radio, Fuso Radio, Fuso Radio, Fuso Radio, Fuso Radio, Fuso Radio, Fuso Radio, Fuso Radio. Un'altra Radio Ramo, un'altra Rodia. Un'altra Rodia, un'altra Radio Ramo. Solo musica Creative Commons. Mister Brontolo, Mister Chemo, Mister Gasperino, Mr. Cocco, solo musica Creative Commons! Radio Ramo. Radio Roma. L'Arte Radio Ramo.